100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Forse suona un po' scontato, ma è proprio il caso di dire che per l'Italia a Bruxelles gli esami non finiscono mai. I nostri conti pubblici sono da tempo sotto osservazione della Commissione europea per il rischio di quelli che i tecnici chiamano gli squilibri macroeconomici eccessivi. In pratica abbiamo un debito pubblico troppo elevato, non abbiamo centrato l'obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio, abbiamo bassa competitività e sofferenze bancarie eccessive. Così, dopo un po' di incertezze, la Commissione europea ieri ha deciso di inviare al governo italiano la lettera di cui si è molto parlato in questi giorni, una lettera nella quale si mette l'accento sui rischi per il nostro paese di violazione delle norme sulla riduzione del debito pubblico. Bruxelles in realtà non ci chiede per ora una nuova manovra di finanza pubblica, ma si aspetta che il nostro governo entro il 15 aprile faccia sapere quali misure intende adottare per rimettere i conti pubblici sulla giusta rotta. A che cosa accadrà? Sia Renzi sia Padoan hanno escluso una manovra aggiuntiva, ma è probabile che qualche correzione dovrà essere fatta. Si parla di 3 miliardi in più da trovare tra le pieghe del bilancio di quest'anno. Dove trovarli? Beh, in parte finalizzando gli incassi dell'operazione rientro di capitali, e questa voce potrebbe valere circa 2 miliardi di euro. E poi grazie agli ulteriori risparmi sul finanziamento del debito pubblico, grazie a tassi sui titoli di Stato sempre più vicini a quota zero o addirittura sotto zero. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alberto Orioli. Come al solito, quando si parla di prodotto interno lordo viene fuori la fotografia in chiaroscuro dell'economia italiana. L'Istat la ripropone oggi e ci avverte che le prime stime di crescita del PIL nel primo trimestre 2016 segnalano un più 0,1%, il solito maledetto 0, che porta la crescita acquisita per quest'anno allo 0,4%, purtroppo molto al di sotto delle previsioni del governo, che conta su un PIL del 2016 che dovrebbe chiudere almeno a più 1,3%. E d'altro canto, proprio pochi giorni fa, l'agenzia di rating Fitch aveva abbassato le stime di crescita dell'Italia all'1% a causa delle conseguenze del rallentamento dell'economia globale. Tuttavia, c'è una nota positiva in questo dato diffuso oggi dall'Istat. Ci sono segnali positivi che provengono dai servizi e per la prima volta anche dall'edilizia. Non dimentichiamo che l'edilizia è il settore più falcidiato dalla crisi e la sua ripartenza è decisiva per lo sviluppo anche della domanda in tutti gli altri settori. Scendendo ancora di più nel dettaglio, l'Istat ci avverte che all'incremento del PIL contribuiscono positivamente i consumi privati, a fronte di un apporto ahimè negativo della domanda estera e dei consumi pubblici. Mentre, e questa è una nota davvero dolente, la dinamica degli investimenti risulta sostanzialmente piatta. Senza investimenti la ripresa non riparte come dovrebbe, questo è noto. E sarebbe davvero un peccato ora che cominciano a consolidarsi segnali positivi anche sul mercato del lavoro, perché, ed è bene ricordarlo, il Jobs Act ha aiutato la creazione di 450.000 nuovi posti di lavoro in un anno. Se si pensa che la lunga crisi ne ha bruciati almeno 1 milione, effettivamente siamo di fronte a un buon risultato. Guai a sprecarlo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.